Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle istanze, alle iniziative e alle pratiche del movimento animalista, antispecista e vegan. Siamo in onda dal 2012 con l'obiettivo di dare considerazione e attenzione agli animali non umani, commentando fatti di cronaca e di cultura, cercando di metterci dalla loro parte, cercando di capire quello che potrebbe essere il loro punto di vista e il loro interesse. Lo facciamo per ridurre la violenza nei loro confronti e quindi anche per costruire una società umana migliore, una società non violenta o, come ci piace dire, cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 550, nella quale parleremo di animali e catastrofi, vegani in politica e quote orsi. Speriamo di avervi incuriositi. In questo periodo uno spot che pubblicizza il bonus statale che spetta ai genitori di bambini piccoli per l'installazione di un dispositivo antiabbandono che impedirebbe di dimenticare i bambini in auto, come purtroppo è accaduto in pochi drammatici casi intorno ai quali la cronaca ha costruito un dibattito di enorme risonanza. Chi trasporta bambini sotto i 4 anni e verrà trovato senza dispositivo rischia multe fino a 333 euro e 5 punti della patente. Lo Stato investirà in sgravi fiscali decine di milioni di euro. Eppure negli ultimi 20 anni in Italia di casi mortali di bambini abbandonati in auto ne abbiamo registrati 8. Sempre troppi, ovviamente, ma non è un numero esorbitante. È evidente che una simile mobilitazione di risorse, di denaro pubblico, ha potuto essere messa in campo per il forte consenso che la sostiene, per l'importanza cioè che la protezione dei bambini riveste nella nostra cultura e nella nostra società. Ma quale importanza diamo invece come società alla protezione degli animali non umani? Parliamo di cani, per esempio, gli animali più amati. Nel nostro civile paese europeo ogni anno vengono registrati oltre 150.000 abbandoni. I mesi in cui si registra il maggior numero di abbandoni sono giugno, luglio e agosto, quindi ci siamo in pieno. Si calcola che in 90 giorni si superino i 65.000 cani lasciati per strada, talvolta legati, senza un minimo quantitativo di cibo e acqua. A conti fatti, vengono abbandonati oltre 20.000 cani ogni 30 giorni, ovvero più di 600 cani ogni 24 ore. Ogni cane abbandonato rischia la morte perché, essendo cresciuto in cattività, non è in grado di procurarsi cibo, acqua e un riparo. L'80% dei cani abbandonati muore per strada aspettando il ritorno di quello che considera l'amico umano. Il 3 agosto, nelle pagine della cronaca di Palermo, su Repubblica Online, si dava notizia di un cagnolino dimenticato sul balcone per 2 giorni, a temperature sopra i 40 gradi, senza acqua, né cibo, né riparo. La coppia di proprietari aveva litigato e abbandonato l'appartamento, ma il piccolo cane era stato dimenticato in terrazza. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno allertato i vigili del fuoco. Non sappiamo quali siano state le dinamiche di questo soccorso, ma è stato evidentemente un soccorso intempestivo. Il cane recuperato era già in condizioni gravissime e non ce l'ha fatta. La coppia potrebbe essere denunciata per maltrattamento di animali, ma anche i vicini possiamo dire che non si siano dati da fare troppo rapidamente. È un fatto di cronaca recentemente accaduto, ma ce ne sono molti altri di segno diverso. Facciamo una breve carrellata di odio e amore nei confronti degli animali. Se l'episodio di Caltanissetta del cane segregato sul balcone trasuda indifferenza, domenica 9 agosto la città di Piacenza è stata il teatro di un episodio dal segno decisamente diverso. Un uomo di 42 anni di nazionalità romena ha perso la vita annegando nel Po dopo essersi tuffato per salvare il suo cane, che era finito in acqua sotto il ponte ferroviario. All'uomo è stato praticato un lungo massaggio cardiaco, ma purtroppo è deceduto dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Il cane, per salvare il quale l'uomo si era lanciato in acqua, è sopravvissuto. Evidentemente ci sono anche gesti di amore estremo come questo nei confronti degli altri animali, degli animali non umani. Notizia di segno negativo dal nostro punto di vista arriva da Castiraga Vidardo, una piccola cittadina dell'Odigiano. In questo posto, situato in una zona decisamente vocata all'agricoltura, il pensionato 83enne Angelo Boletti è stato costretto a pagare una multa perché il suo gallo Carlino ha cantato come fanno i galli di mattina presto, svegliando i vicini, i quali, infuriati, hanno tartassato la polizia urbana fino a costringerla a intervenire e a multare il Boletti. Ma non per il canto del gallo, perché questo non può essere multato, ma per la violazione dell'articolo 16,6 del regolamento di polizia urbana, perché ospitava sul suo terreno animali domestici senza rispettare la distanza minima di 10 metri dalle abitazioni vicine. 166,66 euro, che per Carlino e per il pensionato Boletti hanno significato più che altro un avvertimento. O te ne vai o ti daremo del filo da torcere. E infatti il gallo ha già lasciato l'abitazione dove era ospitato. L'83enne che ospitava Carlino però non l'ha presa bene e, giustamente infuriato, ha fatto diverse copie del verbale per diffonderlo nel quartiere e nei bar. Concludiamo questa breve carrellata di notizie di odio e amore verso gli animali con una notizia di cronaca che ci sembra invece positiva. Quest'estate quasi un italiano su 5, quindi il 22%, ha scelto di partire in vacanza con il proprio animale, grazie a una accresciuta cultura dell'ospitalità pet friendly lungo tutta la penisola. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti XE nella settimana delle grandi partenze che precede il Ferragosto, segnata dal grande caldo. Una minoranza del 7% degli italiani rinuncia a portare con sé i propri animali perché non è possibile farli accogliere nella struttura di permanenza. E stiamo parlando di cani, di gatti, ma anche di uccelli, conigli, tartarughe e pesci. Ci auguriamo che la crescente cultura pet friendly abbia quantomeno un effetto virtuoso sugli ancora spaventosi numeri degli abbandoni estivi. Il 14 agosto scorso si è svolto a Roma l'annunciato e delicato incontro tra il governatore del Trentino e leghista Fugatti e il ministro all'ambiente Costa sullo scottante tema dei selvatici carnivori, orsi e lupi. In questa trasmissione più volte abbiamo affrontato il tema degli animali selvatici che danneggerebbero le attività umane. In primis lupi e orsi, spauracchio degli allevatori, e poi cinghiali, spauracchio degli agricoltori. Si tenta di forzare le tutele dei selvatici minacciando la possibilità di tornare a sparare e annientare anche specie protette per farsi giustizia da soli, generalmente in chiave di ricatto nel tentativo di ottenere poi aiuti economici, sgravi, fiscali e indennizi. Durante l'incontro si è fatto riferimento a un tavolo congiunto di esperti che dovrebbe stabilire qual è il numero massimo di orsi che il Trentino può ospitare. Ovviamente gli esperti dovrebbero essere dei tecnici provenienti dal mondo della biologia, della scienza, dell'etologia, totalmente super partes, ma le pressioni sono invece rivolte a inserire nel pool di esperti anche personaggi indicati dalla provincia autonoma di Trento, che molto probabilmente dovrebbero rappresentare gli interessi economici della zona. Il ministro si è anche detto disponibile a cercare zone e ambienti idonei dove collocare gli esemplari problematici. Insomma, come per i migranti, anche per i selvatici ci saranno respingimenti e rimpatri, richieste di asilo, attese di un'autorizzazione a frequentare determinate zone, autorizzazioni che andranno per quote la cui entità dovrà essere decisa in maniera del tutto arbitraria dal genere umano residente in zona e quindi ancora vedremo imporsi l'egoistico principio del not in my backyard, ovunque ma non nel mio cortile. Noi della redazione di Restiamo Animali speriamo che il ministro Costa prenda tempo perché si placchino le polemiche e che non si vada realmente in questa direzione. Sarebbe una grave defaillance, sarebbe l'inizio della fine per ogni idea di possibile convivenza con la vita selvatica. Periodo caldo e vacanziero abbiamo pensato di riproporre una serie di recensioni letterarie, ovviamente selezionate in chiave animalista. E agli orsi è dedicato l'invito alla lettura di questa settimana. Riproponiamo la recensione al libro thriller Il passaggio dell'orso di Giuseppe Festa, curata dagli editori Troglodita Tribe. Il passaggio dell'orso di Giuseppe Festa, Salani Editori, 224 pagine, euro 14,90. Davvero appassionante questo romanzo d'avventura per ragazzi. Un tuffo nei 50.000 ettari del Parco Nazionale d'Abruzzo, tra foreste, praterie, fiumi, laghi, monti e soprattutto orsi marsicani, che sono proprio il simbolo di questo parco, il più antico d'Italia. È in questo contesto davvero spettacolare che si incontrano due adolescenti, Kevin e Viola, entrambi sul posto per lavorare con i guardiaparco come volontari. Il primo punito perché bocciato e la seconda premiata perché promossa a pieni voti. Due caratteri completamente diversi che riusciranno ad entrare in sintonia diventando più che amici. La vicenda si snoda proprio come un thriller animalista, visto che un'orsa è stata uccisa dai bracconieri e ha lasciato due cuccioli che difficilmente riusciranno a cavarsela da soli. Uno di loro non teme e si fida degli umani, ma rubacchiando cibo a volte spaventa i turisti, andando a compromettere troppi interessi. Nel frattempo viene avviato il programma di ricerca dell'orso marsicano, sono meno di 70, che ne prevede la cattura, con lo scopo di rilevare le misure biometriche, prelevare campioni di sangue, apporre marchi auricolari e munirli di radiocollari. Nell'avventura non mancano i bracconieri, che in accordo con uno dei responsabili del programma tentano di uccidere gli orsi. Ma non mancano neppure i contrasti tra chi vuole trasformare il parco in una fonte di ricchezza, costruendo alberghi, piste da sci e una rete stradale, e chi invece vuole proteggere gli orsi senza invadere il loro territorio e senza sottoporli allo stress di quegli studi. Verrà quindi a crearsi una collaborazione proficua fra i due ragazzi e i guardiaparco, che, uniti, indagheranno per riuscire a risolvere la situazione che minaccia gli orsi. Una storia avvincente che ricorda la realtà degli eventi legati all'orsa d'Anizza, la quale, prima di essere uccisa nei boschi del Trentino da una dose di sonnifero sparata incautamente, riuscì a resistere scappando con i suoi cuccioli per centinaia di chilometri, mobilitando le autorità e i media, ma soprattutto l'intero mondo animalista. Un romanzo che invita a non limitarsi alla condanna degli esecutori, i bracconieri e chi li paga, ma a considerare anche la grave responsabilità di chi vede la natura selvaggia come una proprietà, un pericolo o un ostacolo alla sete di ricchezza e di chi, in nome della scienza, pretende di monitorare ogni passo e ogni gesto degli orsi, violando le loro tane, sedandoli e analizzandoli. Senza dimenticare i turisti che invadono incautamente il loro territorio giusto per farsi un selfie e gli allevatori che denunciano false aggressioni per avere rimborsi, che infamano gli orsi creando ad arte l'indispensabile necessità di catturarli e rinchiuderli, mentre gli orsi da secoli cercano solo di resistere alla nostra invadenza. Out of range, how far can we all go? Stop the light from dying, pull the hurt within. There's something real in a heart that breaks, where we wait and love forsakes, and all the creatures cry in cages made by traitors. You and I never meant to feel this. The pain that burns our eyes, we couldn't stop this. And in the end, time will be our jailer. And you can try. In Danny Danimarca sta scaldando i motori il partito vegano, che afferma di avere abbastanza sostegno per candidarsi alle prossime elezioni, aggiudicandosi qualche seggio in Parlamento. Lo riferisce l'8 agosto Europa Today dalla sua redazione di Bruxelles. Il Veganer Partiet, il partito dei vegani, è stato fondato nel 2017 per difendere i diritti degli animali, ma ora si sente pronto al grande passo. Dopo aver ottenuto il numero minimo di firme richieste a un partito per correre alle elezioni, si sta preparando a inoltrare la richiesta ufficiale al Ministero degli Interni, anche se la prossima tornata elettorale è prevista, a meno di eventuali colpi di scena, solo nel 2023. Se riuscirà a ottenere almeno 70.000 voti, potrebbe eleggere 4 deputati nel Folketinget, il Parlamento della piccola nazione di neanche 6 milioni di abitanti. Il portavoce del partito vegano danese, Corvinius Olesen, ha chiesto la chiusura di tutti gli allevamenti di bestiame a beneficio umano e ha avvertito le altre formazioni politiche che darà loro del filo da torcere mettendo alla prova le loro proclamazioni ecologiste, in quanto non si può pretendere di essere ambientalisti mentre si sostiene l'industria degli allevamenti, oppure mangiando la carne o qualsiasi altro prodotto animale. E diciamo noi come dargli torto, chi porta avanti le istanze ecologiste effettivamente dovrebbe essere conseguente anche nelle sue scelte personali. Ricordiamo infatti che Greta Thunberg è vegana. Se volete seguire il partito vegano danese, lo trovate su Facebook digitando Veganer Partiet. Hiroshima è stato celebrato il 75esimo anniversario dallo scoppio della bomba nucleare. Cresce l'attenzione intorno alla flora sopravvissuta alle radiazioni nucleari, al punto che sono stati censiti gli alberi colpiti dalla bomba atomica e sopravvissuti. Si chiamano Ibaku Jumoku e sono tutti identificati con un'apposita targa. A Hiroshima sono circa 170 di 32 differenti specie. Non si trovano invece molte notizie riguardanti gli animali non umani colpiti da quella catastrofe. Eppure sappiamo che fu anche per loro un'ecatombe, a partire dall'atroce utilizzo che è stato fatto di animali non umani durante i test degli effetti delle radiazioni nucleari. Forse non tutti sanno che nel luglio 1946, quindi un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, all'atollo di Bikini nelle isole Marshall fu fatta esplodere una bomba atomica molto più potente rispetto a quella di Hiroshima e Nagasaki. Diverse migliaia di animali, circa 3.030 ratti, 109 topi, 57 porcellini d'India, 176 capre e 147 maiali furono collocati su navi bersaglio vicino al sito dell'esplosione, in varie località, per vedere se e come sarebbero sopravvissuti questi disgraziati animali. Parliamo di animali non umani nelle catastrofi perché vogliamo oggi ricordare la tragedia che si sta verificando a Beirut, in Libano, in questi giorni, dovuta all'esplosione delle riserve di nitrato di ammonio nel porto della capitale. Le notizie parlano di 158 morti umani e di 60 dispersi, sempre umani, ma nessuno ha censito gli animali non umani dispersi o morti in questa occasione. I volontari dell'associazione Animals Lebanon, membro dell'OIPA International, si sono messi alla ricerca per le strade di Beirut di animali feriti o dispersi. Le operazioni di soccorso sono state avviate sia per gli animali che stanno vagando per le strade avendo perso la loro casa e i loro umani di riferimento, sia per i randagi. Se volete aiutare questa associazione libanese e fare una donazione, andate su animalslebanon.org/get-involved/more-ways-to-give. I've got the devil in me! Perché? bellezza. Volete sedervi a tavola e sentirvi come in una reggia? Nella rubrica etico-gastronomica Il pasto gentile, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ha la ricetta che fa per voi. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Una ricetta per Ferragosto che vi faccia sentire dei veri re e regine? Le margheritine di Stresa, fragranti biscottini creati nel 1857 dal pasticcere Pietro Antonio Bolongaro per Margherita di Savoia, che da quel momento li volle ogni anno come dessert nei pranzi ferragostani. E che volete essere da meno dei reali sabaudi? Ecco gli ingredienti per 4 persone per le margheritine di Stresa. 300 g di farina tipo 0, 50 g di farina di riso, 60 ml di acqua, 50 ml di latte di soia, 50 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di olio di cocco, 120 g di zucchero di canna, della vaniglia, la scorza grattugiata di mezzo limone, un pizzico di sale, un pizzico di curcuma in polvere e dello zucchero a velo per decorare. Emulsionate il latte di soia, l'olio di cocco e l'olio di semi di girasole con un frullatore di immersione, fino ad ottenere una crema liscia. In una bowl capiente unite tutti gli ingredienti. Lavorate il tutto fino ad ottenere un impasto ben amalgamato. È importante non lavorare troppo per dare maggior friabilità ai biscotti. Avvolgete la pasta nella pellicola e fatela riposare per 30 minuti in frigorifero. Trascorso il tempo necessario, stendete la pasta ad un centimetro di spessore. Con uno stampo a fiore, la tipica forma delle margheritine di Stresa, ritagliate i biscotti e adagiateli su una teglia con un foglio di carta forno, lasciando un po' di spazio tra l'uno e l'altro. Adesso potete scegliere se fare un foro al centro delle margherite o praticare una leggera pressione creando un piccolo affossamento. Infornate in modalità ventilata a 180 gradi per 15-20 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare prima di servire spolverando con zucchero a velo. Saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 551 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.